È roba da far tremare l'Italia, rivela al collega dell'ANSA, Lucio Galluzzo. Quella sera mi fece una telefonata e mi disse se c'erano novità. Novità non ce n'erano, gli dissi: è molto tempo che non ti sento e non ti vedo, che stai facendo? E lui mi disse: ah, ma sai, ho una grossa cosa nelle mani. Dal tono della sua voce mi annunciava qualche cosa di grosso, dalle parole che mi disse capì questo. Con tono evasivo di chi non vuole rivelare quello che sta facendo, che oltretutto è fisiologico per il tipo di lavoro che facciamo. Sono passati molti anni dalla morte del presidente dell'ENI Enrico Mattei. Sul finire degli anni Ottanta il fascicolo giunge sul tavolo del sostituto procuratore di Pavia Vincenzo Calia, che formula l'ipotesi dell'attentato, ma però non può provarlo, e scrive: l'esecuzione dell'attentato venne pianificata quando fu certo che Enrico Mattei non avrebbe lasciato spontaneamente la presidenza dell'ente petrolifero di Stato. Chi compie il sabotaggio dell'aereo di Enrico Mattei? Il pubblico ministero Vincenzo Calia non riesce ad accertarlo, anche se lo intuisce. Responsabilità di uomini inseriti nell'ENI, negli organi di sicurezza dello Stato, e ancora depistaggi, manipolazioni, sottrazioni di prove e documenti. Il magistrato parte da 100 grammi di esplosivo Compound B. Vengono sistemati dietro il cruscotto dell'aereo. La carica viene innescata dal comando che abbassa il carrello e apre i portelloni di chiusura. Calia giunge a queste conclusioni dopo le perizie del medico legale Carlo Torre, l'ingegnere Donato Ferrao, il capitano dei carabinieri Giovanni De Logu, l'esperto della Marina Militare Italiana Giovanni Brandi Marte. Il magistrato mette a confronto tesi differenti, ma non raggiunge mai ad una conclusione certa. Non può farlo, non ha le prove, ma conserva numerose testimonianze. Il pentito Tommaso Buscetta rivela: la mafia americana chiese a Cosa Nostra il favore di eliminare Enrico Mattei nell'interesse sostanziale delle maggiori compagnie petrolifere americane. Enrico Mattei finanzia la politica. Svolge soprattutto un ruolo parallelo di ministro degli esteri, grazie ai suoi rapporti con Algeria, Unione Sovietica e i paesi del Mediterraneo. Riceve minacce, qualcuno lo vuole eliminare. 26 ottobre 1962, vigilia del viaggio in Sicilia. Alla moglie Enrico Mattei confida: può anche darsi che io non torni più. 27 ottobre 1962, Enrico Mattei tenta di depistare i suoi nemici. Si porta in Sicilia due Morin Saulnier della flotta aerea dell'ENI e lascia aperta la destinazione del suo viaggio di ritorno, Roma o Milano. Nel 1998 il SISDE consegna al magistrato Vincenzo Calia un appunto del 1979, forse quello più inquietante. Il vicequestore Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo, ucciso dalla mafia, si occupava quasi a titolo personale della scomparsa del noto giornalista Mauro De Mauro, eliminato per aver trovato il bandolo della matassa sull'incidente aereo che costò la vita all'onorevole Enrico Mattei. La morte di Enrico Mattei e la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. Due storie italiane unite da un unico filo conduttore, il film Caso Mattei. Nella sceneggiatura, scritta dal cronista dell'Ora di Palermo, potrebbe celarsi la risoluzione dei due casi. E ancora una volta ci viene in conto la memoria. Quella del regista Francesco Rosi, al microfono di Adriana Fracchia. La documentazione degli ultimi due giorni di Mattei in Sicilia già esisteva, perché lo stesso Mauro De Mauro aveva ricostruito gli ultimi due giorni di Mattei per il suo giornale L'Ora di Palermo. Tra l'altro erano miei collaboratori alla sceneggiatura Tito De Stefano, che era stato il capo dell'ufficio stampa di Mattei e che era un editorialista del giorno e che collaborò alla sceneggiatura anche Nerio Minuzzo, che era giornalista dell'Europeo. Quindi una documentazione di questi due ultimi giorni già esisteva. Io e la produzione del film La Vides di Franco Crisaldi ritenemmo